Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Siamo dei stati dei cani sciolti da riportare a cuccia, con le buone o con le cattive, mi si consenta questa espressione. Io credo che appunto, il comune denominatore sia questo, sia quello appunto di avere denunciato un conformismo giudiziario che nuoce alla magistratura. C'è una questione morale all'interno della magistratura? Sicuramente sì. Una questione morale tra le toghe. Nei giorni dello scontro tra le procure di Salerno e Catanzaro sulla vicenda De Magistris, uno scontro senza precedenti, per dirla con le parole del Quirinale, chi ha chiesto gli atti ai due uffici giudiziari, torna a far sentire la sua voce Clementina Forleo. Il giudice è trasferito da Milano a Cremona a suon di roventi polemiche che l'hanno vista fianco a fianco proprio con Luigi De Magistris. Il PM è spostato anche lui per incompatibilità ambientale da Catanzaro a Napoli. Le loro storie si sono incrociate in TV, nelle critiche e poi nelle decisioni del CSM, e i loro nomi sono per molti affiancati. Così De Magistris firma un intervento nel libro intervista di Antonio Massari e Clementina Forleo, un giudice contro, edito dalla Aliberti, e a sua volta la Forleo segue con attenzione il caso De Magistris e avverte: altri tribunali potrebbero essere coinvolti. Io non conosco nei dettagli la questione, non le nascondo che la sto approfondendo, mi incuriosisce approfondirla. Credo tuttavia che il nodo cruciale sia in quello che è accaduto a Catanzaro negli ultimi tempi, nelle scoperte di vere e proprie connivenze, di fette del potere giudiziario con quella che possiamo definire la massomafia del posto, e che forse non potevano essere solo del posto. È stata credo la prima volta che delle indagini hanno messo sotto accusa anche la magistratura, vertici della magistratura, considerandola sistematicamente collusa, complice, distratta. E ciò come un effetto a cascata, e questa appunto a mio avviso la vera pericolosità di questa indagine, poteva e può battersi su altre procure e su altri tribunali italiani. Ecco perché, partecipando l'anno scorso ad Anno Zero, nelle due puntate dedicate alla vicenda, dissi che a mio avviso si erano toccati tasti che non si dovevano toccare, che in particolare appunto l'indagine, la cosiddetta indagine toghe lucane, era, per appunto i motivi che ho detto, la più pericolosa per gli equilibri su cui si reggeva e si regge il sistema. Quindi, secondo lei, all'origine di questo scontro tra le due procure c'è proprio quello che De Magistris stava scoprendo nelle sue inchieste, Why Not e Poseidon? Sì, ripeto, i dettagli dello scontro da un punto di vista tecnico non li conosco e li sto approfondendo anche appunto per mia curiosità, ma dietro alle forme la sostanza a mio avviso è quella: non ci sarebbero stati appunto questi scontri o comunque in questi termini se le indagini in questione avessero riguardato persone non eccellenti, a mio avviso, chiaramente. Il suo nome e quello di De Magistris sono stati più volte citati insieme, a partire anche da quella trasmissione di Anno Zero che lei ricordava. In questi giorni dello scontro tra le due procure vi siete sentiti? Io conosco poco il collega De Magistris, ci siamo incrociati in qualche occasione, ci siamo scambiati qualche telefonata, non è un problema personale. Io credo che io e De Magistris abbiamo storie diverse ma un comune destino. Qualcuno ha affermato che accostando io la mia figura e la mia vicenda a quella sua ero caduta in un trappolone. In effetti, partecipando a quelle puntate di Anno Zero, poi la situazione è evidentemente precipitata per quanto mi riguarda. Altri avrebbero affermato, l'ho detto lo stesso De Magistris, altri gli avrebbero invece affermato che l'accostamento di De Magistris alla mia persona gli era nuociuto. Io penso che alcuni di questi nostri consiglieri aveva e ha capito che, al di là delle differenze indiscutibili tra le nostre storie, l'accostamento era esplosivo per il sistema. Separati saremmo stati sicuramente più innocui. Dopo quanto è successo tra Salerno e Catanzaro si è tornati a parlare in modo impellente di riforma della giustizia. È uno dei punti in agenda dell'esecutivo e a proposito di questo, lei in un convegno dei penalisti a Milano sostenne con forza, ottenendo applausi dalla platea degli avvocati, la necessità della separazione delle carriere tra PM e giudici. La pensa ancora così? Anche quel convegno mi è costato tanto, perché purtroppo in una democrazia moderna ancora nel 2008 non è molto difficile andare fuori dal coro. Io ritengo che la separazione delle carriere, anche se poi probabilmente c'entra poco con quello, a mio avviso, sempre una mia opinione, con quello che è successo di cui abbiamo parlato prima, la separazione delle carriere è necessaria al sistema perché consente un'effettiva parità tra accusa appunto e difesa, parità che a mio avviso non c'è. Mi meraviglia che i vertici dell'Associazione Nazionale dei Magistrati non se ne siano ancora accorti. Il pubblico ministero non può essere un collega del giudice e l'avvocato un estraneo appunto al sistema, e il sistema non può sopportare a mio avviso questo squilibrio, ma questo ovviamente perché poi tutto si ritorce ai danni del cittadino comune, soprattutto del cittadino che non è sufficientemente attrezzato per fronteggiare appunto delle indagini a suo carico, per fronteggiare una difesa adeguata. Questo ovviamente non significa, anche De Magistris è d'accordo con me, non significa che la separazione delle carriere automaticamente debba appunto comportare una sottomissione dei magistrati inquirenti del pubblico ministero all'esecutivo, tutt'altro, basterebbe appunto prevedere per i pubblici ministeri con delle carriere appunto separate rispetto a quella dei giudici, basterebbe appunto prevedere le stesse garanzie di autonomia e di indipendenza previste per i giudici. Del resto queste garanzie di indipendenza e di autonomia a mio avviso anche nell'attuale sistema non troppo ci sono. Perché? Perché appunto non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, il pubblico ministero non sempre evidentemente indipendente e autonomo, deve dare conto delle sue scelte appunto a un procuratore, il caso De Magistris appunto lo dimostra, un procuratore generale che per tanti motivi appunto possono non essere d'accordo con le sue scelte e possono arrivare a vocargli appunto delle indagini, soprattutto questo si ripete quando le indagini sono delicate. Il problema appunto però della riforma che a mio avviso si impone ed è urgente, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'organo di autogoverno, una forte riflessione, perché appunto gli scempi, quelli che voglio definire gli scempi di questi ultimi tempi, appunto e da ultimo quello che si è verificato tra le procure Catanzaro e Salerno, perché questi scempi non si ripetano, è necessaria una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che veda i magistrati che lo compongono non eletti in base all'appartenenza alle cosiddette correnti, ma designati in base a criteri automatici che li rendano quindi più liberi e che evitino delle logiche clientelari simili, parallele, sovrapponibili a quelle proprie del potere politico. Lei ha più volte detto che se non si è all'interno di qualche corrente se ne paga le conseguenze. Ma sì, certo, questo è evidente, non lo dico solo io, lo ha detto Bruno Tinti che purtroppo ha lasciato la magistratura da qualche giorno, lo ha detto anche recentemente Agostino Cordova. Io ritengo che alla fine con questa composizione, con l'attuale composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, alla fine i controllori finiscono per sovrapporsi appunto ai controllati, e quindi il magistrato libero, il magistrato che non vuole allinearsi, che non vuole schierarsi, poi finisce per pagare i suoi fisiologici errori molto più di quanto non li paghi il magistrato obbediente appunto al sistema, e poi che finisce il magistrato che non vuole allinearsi per non fare mai carriera, perché anche qui non ci possiamo nascondere che chi fa carriera è evidentemente un magistrato in genere, senza generalizzazioni per carità, ma più delle volte è un magistrato allineato, è un magistrato schierato, un magistrato che appartiene, ecco. E si torna al rapporto tra magistratura e politica, un rapporto controverso negli anni, soprattutto da Tangentopoli in poi, un rapporto che è cambiato e che lei stessa ha in qualche modo vissuto lavorando qui a Milano sul finire di Mani Pulite fino agli ultimi anni, passando appunto per la stagione delle scalate bancarie che l'ha vista protagonista. Il rapporto politica-magistratura da Mani Pulite in poi è sicuramente cambiato. Io credo che quella che fu definita e che a mio avviso può essere definita una rivoluzione giudiziaria e culturale, poi, come dire, è finita un po' fuori controllo, dal momento che proprio quella parte della politica che aveva appoggiato allora la magistratura si è ritrovata coinvolta in delicatissime indagini, rompendo dunque quell'idillio, quell'incantesimo e costringendo la magistratura a fare i conti con se stessa. In altri termini, da allora all'attualità si è capito un fatto nuovo, se si vuole, devastante, cioè il nemico da combattere non stava da una sola parte, il caimano non era solo uno, ce n'erano tanti, di diverso colore, peraltro anche intranei alla magistratura, affette appunto della magistratura, e quindi la magistratura si è trovata, come dire, allo sbando, nei suoi vertici più che nella base. Credo che il silenzio dell'Associazione Nazionale Magistrati su quello appunto che sta accadendo e che si è verificato ultimamente sia il segno tangibile di un forte e profondo imbarazzo all'interno della magistratura, che oltre appunto alla presenza di nuovi caimani ha dovuto iniziare a riflettere su se stessa. Beh, però l'ANM ha parlato di una vicenda che metteva a rischio la credibilità stessa della categoria nei giorni dello scontro tra le due procure. Ecco, però io credo appunto che l'ANM debba interrogarsi su quello che è a monte, non quello che è a valle. Perché è avvenuto quello scontro? Storielle. Storiacce. Dietro il braccio di ferro tra le procure ci sono le connivenze scoperte da De Magistris. Dopo aver parlato dello scontro tra Salerno e Catanzaro, del rapporto tra politica e magistratura e del caso De Magistris, appunto, a cui più volte il suo nome è stato affiancato, Clementina Forleo, il GIP di Milano, ora a Cremona, torna al 2005, l'anno delle scalate bancarie che portarono con sé anche le famose intercettazioni. Annus Horribilis, dice. Forleo De Magistris, i due giudici affiancati nell'opinione pubblica per la comune partecipazione anche alle puntate di Anno Zero, i due giudici puniti con trasferimenti dalle loro sedi, i due giudici le cui sorti sono state in questi anni spesso messe una accanto all'altra. Pur nella specificità delle singole vicende, c'è, secondo lei, giudice Forleo, un unico comune denominatore tra la sua storia e quella di Luigi De Magistris? Ma credo che ci siano due comuni denominatori: il fatto che appunto siamo dei stati dei cani sciolti da riportare a cuccia, con le buone o con le cattive, mi si consenta questa espressione, e siamo andati fuori dal coro, abbiamo fatto l'uovo fuori dal cesto, appunto, come si dice da qualche parte. Io credo che appunto il comune denominatore sia questo, sia quello appunto di avere denunciato un conformismo giudiziario che nuoce alla magistratura e nuoce dunque conseguentemente al cittadino, ad ogni cittadino, e l'altro punto credo che sia quello che appunto nelle indagini da lui condotte e nelle indagini che io ho trattato appunto come GIP sono venuti a galla i nuovi caimani, quelli di altro colore di cui ho parlato prima. Quindi una vicinanza tra il potere giudiziario e i poteri forti? Sì. Come dicevo, i poteri forti che non sono presunti, mi dispiace per il Consiglio Superiore della Magistratura, ma sono tutt'altro che presunti e ne stiamo avendo la prova negli ultimi giorni. I poteri forti ormai hanno scoperto, cioè si sono scoperti vicini al potere giudiziario, anzi il potere giudiziario, una grossa fetta del potere giudiziario si è trovata appunto all'interno dei poteri forti. Io dico sempre appunto che la novità è questa, mentre prima appunto c'erano i controllori controllati, ora appunto si è scoperta una nuova forma di criminalità che potremmo definire appunto, senza ovviamente creare allarme sociale, ma dicendo delle nude verità, si è scoperta quella che potremmo definire criminalità giudiziaria, perché l'intraneità al sistema, l'intraneità appunto al potere inteso appunto nel senso più negativo del termine, è evidentemente emblematica appunto di questo, evidentemente emblematica di una connivenza, emblematica di collusioni tra potentati economici, politici e purtroppo anche giudiziari, grazie appunto a questi potentati giudiziari, potentati economici, potentati politici sono sopravvissuti fino adesso. Sembra quasi di leggere nelle sue parole un certo scetticismo verso quella frase che è scritta in tutte le aule dei tribunali: la legge è uguale per tutti. Ma credo che in questo momento non sono scettica solo io, e la legge dovrebbe essere uguale per tutti, purtroppo non lo è. C'è una questione morale all'interno della magistratura? Beh, dalle parole che ho detto sicuramente sì, da quello che ho detto, e ripeto, la soluzione a mio avviso è destra e sinistra, perché a questo punto secondo me nuoce al sistema, nuoce al cittadino irrigidirsi appunto su delle posizioni preconcette. Devono accettare l'idea che una riforma appunto va fatta, una riforma per appunto risolvere questa questione che finisce appunto per diventare altrimenti nociva al cittadino. Non possiamo, ovviamente la magistratura non può continuare a dividersi la torta, dividersi gli incarichi semidirettivi, direttivi, come ha fatto finora in base a logiche appunto clientelari. E se vogliamo, il vecchio discorso sulla questione morale di Berlinguer, che era riferito nell'81 alla politica e che può a mio avviso essere sicuramente riferito oggi alla magistratura, e purtroppo la magistratura deve fare autocritica, altrimenti non se ne esce. Lei è amareggiata con la sua categoria e con i suoi colleghi? No, non sono amareggiata, nel senso che non amo le generalizzazioni, sono amareggiata per i cittadini, per questa appunto non volontà di fare una seria autocritica. Nella sua carriera un anno decisivo è stato sicuramente il 2005, anno di sentenze delicate sul terrorismo internazionale e l'anno in cui comincia a occuparsi delle scalate bancarie. Alla luce delle polemiche che ci sono stati, alla luce anche di quanto direttamente l'ha coinvolta, lei, ripensandoci, c'è qualcosa che correggerebbe nel suo comportamento e nelle sue decisioni? Guardi, per quanto riguarda le scelte che ho fatto da un punto di vista, diciamo, giudiziario, certamente rifarei sicuramente quello che ho fatto. Io sono tuttora convinta della bontà delle mie scelte, per carità, questa è ovviamente una mia opinione, non voglio difendere strenuamente le mie decisioni difficili sul terrorismo internazionale, non voglio difendere a tutti i costi le mie decisioni difficili nel momento in cui decisi di trascrivere appunto quelle famose appunto intercettazioni. Sono decisioni difficili che comunque non sono state smentite. La Cassazione sul terrorismo internazionale, sui suoi confini con la guerriglia, l'ha pensata diversamente, ma anche la stessa Cassazione appunto è stata criticata poi a sua volta da illustri giuristi, da illustri internazionalisti, da illustri penalisti appunto dello spessore di Alessandro Gamberini. Quindi io queste scelte le rifarei, sicuramente non rifarei altre cose, ma questo ovviamente riguarda appunto ai miei rapporti con delle persone delle quali mi sono fidata e affidata ingenuamente, sicuramente ingenuamente. Però guardi, io ritengo che poi alla fine una persona non debba mai rinnegare il passato, e ritengo, siccome mi è stato dato spesso appunto dell'ingenua, mi è stato detto appunto che sarei stata appunto un'ingenua ad andare ad anno zero, io credo che l'ingenuità a volte è un dato positivo. Le volpi non mi piacciono, e tantomeno le volpi in magistratura. Ed è questo che però appunto è questo che lei col senno di poi correggerebbe, una certa ingenuità. Sì, però questo per un motivo personale, ecco, per motivi personali, ma non per motivi generali, per motivi di immagine, peraltro. Un problema, una riflessione che faccio su me stessa, ma per quanto poi, per quello che è accaduto, tutto sommato io ritengo che determinate scelte che ho fatto poi siano conformi a quella persona che sono, al rispetto della mia dignità, al rispetto della dignità del popolo italiano che rappresento appunto quando ovviamente esercito il mio potere, il potere che appunto i magistrati esercitano con grandi responsabilità. Se poi si è ingenui o meno, credo che questo debba esulare da delle valutazioni che possono appartenere all'opportunità, alla convenienza, ma non ad altro. Ed infine un'ultima cosa le chiedo: avrà letto che il Parlamento europeo non ha dato l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni che coinvolgono Massimo D'Alema, all'epoca europarlamentare? Sì, ho letto e aspetto di leggere appunto la motivazione, la decisione. Sono curiosa di sapere se è una decisione conforme a quella che aveva adottato da un punto di vista motivazionale la Camera dei Deputati o se è una decisione diversa. In altri termini appunto aspetto di sapere, perché le informazioni che ho raccolto dai giornali evidentemente sono abbastanza lacunose, perché appunto probabilmente il testo ancora non lo si conosce nella sua interezza. Sono curiosa di sapere se il Parlamento europeo non ha dato l'autorizzazione per D'Alema per gli stessi motivi per cui la Camera dei Deputati si era spogliata della questione. In altri termini, non c'è bisogno di autorizzazione per iscrivere appunto un parlamentare in base a delle intercettazioni telefoniche, o se invece non l'ha data per altri motivi. Ecco, sono curiosa e aspetto di conoscere questa decisione nella sua interezza.